A tempo di sport di Gigi Garanzini. Qualche notizia e una serie di buone letture nel menù della puntata di oggi. Le notizie sono essenzialmente due di segno opposto, una tragica e una ridicola. Dico ridicola perché è così in spagnolo si dice, è così il Marca, il quotidiano sportivo madrileno, ha titolato a proposito dell'eliminazione del Real dalla Coppa del Re di Spagna per mano dell'Alcorcón, la squadra di terza divisione. Il Real ha tentato vanamente la rimonta ieri sera al Bernabéu dallo 0-4 dell'andata, ha segnato un gol soltanto nel finale e il pubblico del Bernabéu, che aveva praticamente riempito lo stadio nonostante appunto il richiamo per una partita di Coppa, da noi per esempio sia assolutamente relativo, il pubblico si è veramente levato la voglia di fischiare. Questa è la notizia, ripeto, ridicola, perché il grande Real Madrid, che investe 250 milioni di euro in estate e va fuori come una ramazza al primo turno di Coppa di Spagna da una squadra di Serie C, è oggettivamente ridicolo, come ha titolato il Marca. L'altra però è molto migliore questa, la notizia, rispetto a quella tragica, che riguarda il suicidio di Robert Tenk, il portiere dell'Hannover e della nazionale tedesca, che ovviamente campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani tedeschi e non soltanto tedeschi. Oggi la Bild titola: in prima pagina si è buttato sotto un treno, e poi descrive e racconta e soprattutto si interroga sul perché di questo suicidio. Allora, c'è certamente nel passato recente di Henke la morte di una figlia di 2 anni, e probabilmente questo è stato l'inizio. Non c'è dubbio che di suicidio si sia trattato, perché un portavoce della polizia 3 ore fa ha rivelato a un'agenzia di stampa tedesca ha confermato l'esistenza di una lettera di addio, e un'agenzia appena uscita ricostruisce che Henke soffriva da anni di una grave depressione, e lo hanno rivelato oggi sia il medico, sia il suo medico curante, che la moglie, Teresa, la moglie del calciatore suicida. Ho cercato di stargli vicino fino a quando ho potuto, ha detto questa signora Teresa, ma evidentemente non è bastato. Fin qua direi le notizie, perlomeno le notizie principali di oggi. Poi vi ripeto, ci sono una serie di letture interessanti che ho ricavato dai giornali, spesso alcuni di voi mi sollecitano appunto, visto che ho la possibilità di fare una rassegna stampa abbastanza ampia, che non a tutti è possibile, di appunto provare a cercare qualcosa di curioso, di interessante. Io ho trovato 3 cose interessanti davvero stamane. Una è l'intervista su Repubblica che Gianni Mura, che il mio amico Mura, ha fatto a Ciro Ferrara, e è un'intervista a tutto tondo, molto ampia, su tantissimi argomenti. Ho selezionato 3 argomenti in particolare. Mura domanda: uno è sociale, uno è come dire tecnico, e un altro è di nuovo sociale, ma da un punto di vista più strettamente sportivo. Domanda di Mura: ha visto Ferrara le immagini dell'uomo ammazzato a Rione Sanità con i passanti che scavalcano il corpo sul marciapiede? Ciro Ferrara risponde: sì, purtroppo. Oltre al gesto in sé, fa paura la sua fazione. Credo che dobbiamo tutti impegnarci per ridare un'educazione alla legalità. Io insieme a Cannavaro ho dato il mio nome a una fondazione che lavora a Scampia e in altre zone disagiate, si occupa di bambini poveri. Non è una scuola di calcio, ne è responsabile mio fratello Vincenzo. Si lavora d'intesa con altre organizzazioni sul territorio, abbiamo ristrutturato stanze di ospedali pediatrici, dato un'ambulanza al Federico II, creato una ludoteca intitolata ad Annalisa Durante, che fu uccisa nel corso di una sparatoria a Forcella. Dopo un po' Mura gli ridomanda: a proposito, dove sono finiti i grandi difensori italiani? E ripeto, veniamo a un tema calcistico. Risposta interessantissima, anche se non inedita. È venuta a mancare, dice un ex grande difensore, è venuta a mancare la scuola della marcatura a uomo quando si è deciso di privilegiare la zona. Sacchi non mi ha convocato a lungo perché mi riteneva incapace di difendere la zona. Poi ha cambiato idea e questa è stata una delle maggiori soddisfazioni della mia vita sportiva. Tanto più che la zona mi ha allungato la carriera. È molto più facile passare da uomo a zona che viceversa. Ultimo, non ultimo, perché ripeto, l'intervista è lunghissima, ma ultimo argomento selezionato, domanda di Gianni Mura. A me pare che si parli sempre meno di calcio, si parla di concetti, e cioè aggressività, profondità, coesione, che chiamano in causa tutti e nessuno, oppure è sempre colpa dell'arbitro. Risposta di Ciro Ferrara: ho proposto una domenica senza moviole e da parte nostra senza una parola sull'arbitro, una, giusto per vedere l'effetto che fa, la ripropongo. Quanto al resto esistono dichiarazioni in TV e per la stampa, ma a contare davvero è quello che si dice in squadra ogni giorno, anche se so che un mio giocatore ha sbagliato e lo sa anche lui che non è stupido, non andrò mai a colpevolizzarlo in pubblico, non serve a nulla. Credo che ogni riferimento a un allenatore contiguo non sia assolutamente casuale. Abbiamo il tempo di ascoltare un paio di voci che arrivano dal ritiro azzurro della Borghesiana, e sono i due debuttanti assoluti in maglia azzurra. Uno è il livornese Candreva. Prima volta bellissima, non me l'aspettavo, è un sogno che si avvera e emozionante. Sì, comunque sono cresciuto qui nel settore giovanile della Lodigiani, è stata una cosa bella ritornare qui. Non penso al Sudafrica perché comunque, ripeto, per me è un punto di partenza questo, e penso alla salvezza del Livorno. È difficile, però noi dobbiamo il campionato è ancora lungo, dobbiamo giocarcela con tutte le nostre forze, con tutte le squadre, e vediamo quello, noi faremo del tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Questa è la Candreva, il livornese, seguirà il Cagliaritano Biondini dopo un'altra lettura. La stampa, Marco Ansaldo, che ricostruisce un po' i pre-preparativi dell'Italia in vista del Sudafrica, e un po', insomma, inquadra il rapporto tra Lippi e la federazione. Lippi racconta: avevo chiesto di incontrare l'Argentina a marzo come ultima amichevole prima del ritiro per il mondiale. Siamo arrivati con un giorno di ritardo. Quando gliel'abbiamo chiesto, gli argentini si erano appena impegnati con i tedeschi. Peccato. E poi c'è una ricostruzione delle amichevoli attuali e di quelle poi primaverili, sia quelle concretizzate che quelle mancate, al di là di quella con l'Argentina. E poi Ansaldo conclude: rimane la sensazione di un rapporto che andrà a concludersi. Lippi è nei progetti della Juventus, qualcuno entrerà in quelli della Federcalcio, che ha già incassato l'autocandidatura di Luciano Spalletti. Resta da trascorrere al meglio questo semestre bianco e superare le diffidenze da parte di Lippi sull'organizzazione, da parte della Federcalcio sull'atteggiamento del CT sfociato nello sfogo dopo la mini contestazione di Parma. Né ha giovato il gossip su Cassano alimentato dal presidente della Sampdoria Garrone. Giancarlo Abete ha chiesto e ottenuto rassicurazioni sia al club ligure che a Lippi, ma dopo il 2006 il presidente federale vive nel terrore che qualche segreto, pur diverso e meno grave di Calciopoli, turbi la vigilia mondiale. Come in un film già visto, nel giro delle indiscrezioni è finito anche stavolta il figlio di Lippi, Davide. La storia della sua rissa con Cassano è una bufala comprovata, ma è difficile metterla a tacere, tant'è che ieri la rilanciata striscia la notizia. E tutto si tiene, come sempre, alla fine. Facciamo in tempo ancora rapidamente a sentire la voce del cagliaritano Biondini. Sono contento di essere qua. Adesso cerchiamo di fare bene, vivere questa esperienza che è molto emozionante. È la prima convocazione, quindi è tutto nuovo, è tutta una sorpresa, ci sono tantissime cose da scoprire, sarà un altro mondo che mi affascina tantissimo, vediamo come andranno le cose. È carino questo messaggio, trovo ingiusto che giochi nella Coppa Italia di Lega Pro in concomitanza con A Tempo di Sport, e quindi tra un po' vi devo lasciare, forza Hellas, Davide da Verona. Non è male questa, grazie Davide della fedeltà, evidentemente. Poi è ovvio che se gioca la tua squadra del cuore ci mancherebbe altro che non l'andassi a seguire e senza auricolari, perché sennò ti distrai. Mi ha raggiunto Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buon pomeriggio. È una rimpatriata ormai abituale, e stamane sul Sole ti sei occupato di avvocati, no? Praticamente il Sole 24 Ore sembra scritto da te oggi, perché c'è una paginata intera più questo richiamo in prima pagina. La classifica dell'innovazione, carino come spunto, sì, cioè come le varie categorie devono cambiare dopo la crisi, se non ho Sì, come hanno resistito alla crisi e come intendono sfruttare la crisi invece per creare delle nuove opportunità. Ecco, più o meno è questo il tema di cui siamo occupati oggi e ci occuperemo poi nelle prossime settimane. E la prima categoria presa in esame è quella degli avvocati. Gli avvocati, di cui non a caso qualcuno in Lega si è lamentato per le parcelle troppo alte. Ed eccoci subito all'aggancio. E troviamo subito un modo per un aggancio calcistico. Hai detto Lega. Negli ultimi giorni il fatto nuovo, abbastanza nuovo, è il fatto che riguarda la vendita dei diritti televisivi, le varie ripartizioni, ma soprattutto la vendita dei diritti TV all'estero. Qualcuno si è lamentato che il prodotto è stato un po' svenduto o comunque non valutato a pieno. A che punto siamo? Beh, direi che innanzitutto l'incasso raggiunto finora supera, anche se di poco, ma comunque supera le aspettative della Lega, delle squadre. Tra le prossime due stagioni, di fatto, la Lega Calcio incasserà quasi 2 miliardi di euro dai diritti televisivi, una somma che poi ovviamente andrà ripartita in base ai criteri della legge Melandri tra tutte le squadre. Sono sorti alcuni problemi nell'assegnazione di questi diritti TV, in particolare sui diritti satellitari, quelli che si era aggiudicato Sky. La Corte d'Appello di Milano ha per il momento sospeso l'assegnazione a Sky, che pure aveva vinto la gara, sulla base di un ricorso di Conto TV. Di fatto ora si apre un momento di incertezza, in quanto c'è stato poi ovviamente il controricorso della Lega, che invece vuole difendere il proprio operato. Il punto centrale è capire se è stata rispettata la concorrenza, i criteri di mercato nell'assegnazione di questi diritti oppure no. La Lega sostiene ovviamente che l'ha fatto, perché ha previsto una piattaforma alternativa nell'assegnazione dei diritti, cioè quelli delle partite in diretta sono stati venduti a Sky, mentre era previsto un pacchetto alternativo di differite con sintesi delle partite, per le quali in realtà poi nessuno ha presentato l'istanza. Questo tipo di pacchetto alternativo all'interno della piattaforma satellitare per la Corte d'Appello di Milano e probabilmente anche per l'antitrust non è stato sufficiente per garantire appunto la concorrenza, ed è stata bloccata tra l'altro anche la vendita e l'assegnazione del pacchetto dei diritti satellitari per la Serie B. Certo. Di conseguenza si dovrà ora attendere l'esito della vicenda giudiziaria, con l'augurio che non si arrivi all'inizio della prossima stagione, perché con i tempi della giustizia è anche possibile che si sfori. Esatto, anche oggi abbiamo letto che i tempi della giustizia, perlomeno da certi punti di vista, si accorciano, ma è indubbio che in un caso come questo, per esempio, Qualche rischio c'è. Se parliamo di diritti TV, io personalmente sono più interessato alla loro ripartizione, cioè, a parte il fatto che su questa vicenda io ho messo da parte, come sempre, un po' dei ritagli su ogni argomento. Il titolo di gran lunga più efficace, devo dire, era quello della Stampa, che ha titolato una cosa tipo: la TV del porno blocca il calcio italiano, o qualcosa, rischia di bloccare il calcio italiano, perché no, Conto TV. Di questo si pasce e ci nutre. Anzi, li nutre. Ha ottenuto tra l'altro dei diritti di alcune partite preliminari della Coppa della Champions League, della Coppa UEFA. Non volevo fare la battuta. Certo. dicevo, mi interessa molto di più, se si parla di diritti TV, la legge Melandri o quella che eventualmente seguirà in materia, e cioè a che punto è la ripartizione, lo studio della ripartizione concreta. Obiettivo sempre quello di provare ad avere campionati un po' meno monotematici, no? I criteri sono molto chiari, ma in Italia, quando le cose sono molto chiare, si trova comunque il modo di discuterne. In ogni caso, fatto a questa quota di 1 miliardo all'anno, il 40% sarà assegnato in base a un criterio paritario, quindi tutti avranno diritto a ripartirsi indipendentemente dalla grandezza dall'importanza del club, il 40%. Il 30% invece verrà distribuito in base alle classifiche e ai risultati che si sono ottenuti, addirittura un 10% di questo 30% sulla base di quello che il curriculum, chiamiamolo così, della squadra a partire dal 1946, ma altre fette invece in base ai risultati degli ultimi 5 anni. In questo per esempio l'Inter conquista una percentuale importante di questi diritti, un altro 30% poi andrà ripartito in base a quella che è la capienza, no, dei della tifoseria, quello stadio virtuale che quel presidente cui prima facevi accenno tu, cioè il presidente De Laurentiis, che si è lamentato perché ha detto che in qualche modo sono stati svenduti i diritti all'estero, diciamo, potrà trovare giovamento dall'utilizzo di questo parametro demoscopico, per cui effettivamente poi le squadre che hanno grandi bacini di tifosi anche sparsi sul territorio e quindi non possono seguire la partita allo stadio potranno invece accedere, certo, alla TV, e quindi questo 30% verrà ripartito in questo modo. C'è poi una quota di mutualità su cui già si sta litigando, come accennavo prima, perché all'interno di questo miliardo l'1% dovrebbe essere poi distribuito alla Lega Pro come forma di mutualità. Ovviamente l'1% di un miliardo è stata ritenuta una somma troppo, troppo poco bassa per rilanciare il movimento calcistico di base, e quindi c'è stata già una piccola protesta con una partita iniziata diciamo con qualche minuto di ritardo qualche giorno fa. Tra l'altro questa ripartizione, questi criteri sono inseriti nella legge sugli stadi che è alla Camera e sulla quale, diciamo, si sta ancora di più discutendo, perché non prevederebbe una serie di criteri urbanistici o non rispetterebbe una serie di criteri urbanistici, in particolare per la tutela del paesaggio, quindi sembra essere lì bloccata, per cui aggiorneremo sull'evolversi anche di queste vicende sia giuridiche che economiche per quanto riguarda. Sentite parlare di criteri urbanistici, allora ce n'è uno che non è urbanistico ma che insomma me l'ha richiamato e che è interessantissimo. È una statistica che ha fatto in redazione stamane Franco Piantanida, ed è questa: mentre in Europa nei principali campionati gli stadi con pista atletica, allora premessa, gli stadi per il calcio la pista non ce l'hanno, no? come è abbastanza noto, cioè come si vede il calcio a San Siro, a Marassi, insomma, faccio due esempi a caso di stadi italiani, non si vede certamente all'Olimpico piuttosto che a Udine, a Napoli o dove vogliamo. E questa pista è una condanna, insomma, dal punto di vista della visibilità, della vivibilità anche del calcio, a parer mio. Allora, in Premier League su 20 squadre, che hanno 20 stadi perché là ciascuno è proprietario, non ce n'è una con la pista atletica. Nella Liga ce n'è 3 su 20, che sono l'Almeria, il Mallorca e il Xerez. Due di questi, tra l'altro, Almeria e Xerez, sono abbastanza di passaggio in Liga. In Francia ce n'è altri 3 su 20, esattamente come in Spagna, sono Lille, Monaco. Strano, tra l'altro, perché a Monaco è lo stadio abbastanza recente, oltre che bellissimo, e a Bologna. E in Bundesliga sono 4, Berlina, Norimberga, Stoccarda e Brema. In Italia, su 20 squadre, e cioè su 17 stadi, 9 stadi su 17 hanno la pista, e quindi siamo oltre il 50%. C'è speranza, a parer tuo, che in questi nuovi, molto ipotetici stadi, se si accetta quello della Juve, ho visto stamane delle foto di un sopralluogo di Blanche, del sindaco di Torino Chiamparino, nel cantiere, c'è speranza che questi stadi sorgano finalmente senza pista? Tutti i progetti sono progetti di stadi che non hanno la pista. Tra l'altro mi è capitato sabato scorso, due sabati fa, di assistere a Juventus Napoli al comunale di Torino, che pure... Quindi facevi parte degli infiltrati napoletani che non avevano diritto di esserci, oppure... No, io ero presente in maniera del tutto legittima, non avendo più la residenza in campagna, quindi potevo esserci, ma in ogni caso ho avuto questa folgorazione, appunto, nell'assistere a una partita, al di là del risultato e dell'interesse personale, nel assisterla all'interno di uno stadio che non aveva la pista, e quindi la visibilità, la vicinanza degli spettatori, e avendo visto, tra l'altro, precedentemente solo partite in stadi con pista, cioè a Roma e a Napoli mi era capitato di vedere, e effettivamente il colpo d'occhio era affascinante. Quindi mi auguro che, se dovessero realizzarsi effettivamente questi progetti, anche se le premesse sono tutt'altro che ottimistiche, si tenga fede al fatto che la pista d'atletica in uno stadio di calcio è controproducente. Sono molti messaggi, evidentemente abbiamo toccato, non dico un nervo scoperto, ma insomma un argomento interessante. Giulio Passoni da Brescia, per esempio, domanda: è vero che il Delle Alpi lo hanno fatto con la pista perché altrimenti il CONI o chi per essi non sganciava i soldi? È verissimo, caro Giulio. Quella del Delle Alpi l'ho seguita di persona, ma le posso raccontare anche di altri stadi costruiti o rinnovati per l'Italia 90 che hanno preso il contributo del CONI, che consisteva allora in 5 miliardi di lire, e ripeto, lo ricordo bene, proprio perché era un contributo che il CONI dava perché? Ma per cercare di mantenere in vita sport come l'atletica, ha cominciato l'atletica. In realtà, dato che l'atletica, insomma, diciamo che è un pochino cambiata, credo che in Italia le riunioni atletica vere saranno tre l'anno, che dici, Marco? Sì, tre, cinque, vogliamo esagerare? Poco di più. Ecco, costruire tutti gli stadi con la pista atletica per farci una riunione ogni tanto è semplicemente ridicolo. Ma si sa che quando c'è del ridicolo a cui attingere, noi non ci facciamo mancare nulla. I messaggi di questo genere sono davvero tanti. Invece un altro ascoltatore scrive: per avere l'europeo ci vorranno stadi con la pista, per ragioni di sicurezza si informi, scrive Franco da Udine. Mi informerò con piacere, Franco, ma ho l'impressione che se lo facesse anche lei scoprirebbe che in giro per l'Italia e per il mondo si gioca tranquillamente senza la pista atletica, negli europei, gli europei, i mondiali, le coppe del re come al Bernabéu, insomma si riesce a sopravvivere anche senza la pista atletica. Tornerei alla domanda di prima, Leonardo da Firenze, che ha chiesto a Marco Beninazzo in che modo verranno calcolati i bacini d'utenti o d'utenza, è la stessa cosa, delle varie squadre. Questa è una bella domanda, perché la legge fa riferimento a indagini demoscopiche che dovranno effettivamente calcolare quella che è la popolazione calcistica, chiamiamola così, e sulla base di questi criteri il 25% delle risorse complessive, quindi un 250 milioni all'anno, verranno assegnate alle singole squadre, e inoltre un 5% sulla base della popolazione del comune nel quale si trova lo stadio. Quindi attenzione a delocalizzare poi troppo i nuovi impianti, perché se sono in comuni che hanno pochi residenti, questa quota potrebbe essere più bassa. Certo. Questo è per quanto riguarda appunto la fetta del 30% prevista dalla legge Melandri. Ancora un paio di aggiornamenti rispetto alle cose che stiamo seguendo. Intanto, e poi magari ci alterniamo già con qualche ascoltatore che è in linea. Una è: che fine sta facendo la tessera, la famosa tessera del tifoso? La tessera del tifoso nascerà, l'abbiamo detto tante volte qui, però rimandando sempre la data di nascita effettiva di questo documento dei tifosi DOC. La Lega, quindi le squadre di A e B, hanno trovato un accordo e hanno chiesto però ufficialmente al ministro Maroni di farla partire non dal 1 gennaio 2010, ma dalla prossima stagione, anche perché poi si vorrà arricchire con servizi di tipo bancario o commerciale. Sta di fatto che almeno fino alla prossima stagione saremo tranquilli, quindi manifestazioni di tifosi da un lato e prese di posizione del Ministero, del Viminale dall'altro, di rigore, saranno, come dire, placate almeno fino al prossimo anno, quindi sì. siamo tranquilli per qualche mese. Molto bene, comincerei a sentire Emiliano, che ha chiamato da Forlì. Buongiorno. Ah, buongiorno Garanzini. Di che? A me piacciono ancora le favole di calcio, quindi io auguro a questa squadra spagnola di arrivare in finale di Coppa del Re. Sarebbe bello. Perché umanamente vorrei che il calcio ancora è fatto di piedi, polmoni e muscoli e non di milioni di euro, quindi c'è ancora soddisfazione vedere a volte queste cose. Mi ricordo solo una cosa dal Manaco. Io mi ricordo una squadra francese, il 98-99, sì. Addirittura dilettanti, ma gente che, cioè, veramente dilettanti, nel senso che lo facevano come secondo lavoro il calciatore, che arrivò addirittura in finale di Coppa di Francia con sì. Nantes, sì. E persero 2-1 su un rigore contestatissimo dato al Nantes. Quindi a volte le favole esistono, mi dico, e sarebbe bello poter ricordare che andasse a finire così, perché sarebbe la cosa più bella. Siamo tutti per l'Alcorcon, da ieri sera, anzi già dal 4-0 dell'andata, da quando abbiamo scoperto questa squadra. Credo che andando avanti negli anni, quelle favole, lei ha parlato di 10 anni fa, quelle favole saranno sempre più difficili proprio perché per i discorsi che stiamo facendo adesso, a meno che le ripartizioni dei diritti televisivi, che poi sono quelli che tengono in vita le società anche in Francia, anche in Spagna, non soltanto in Italia, diventino un pochino più eque. Certo che la favola, come dice lei, di una squadra di Serie C che in due partite, non nella partita secca, prende il Real Madrid di Florentino Perez e lo caccia fuori 4-1 nel punteggio finale, è una favola. Insomma, è una favola e sarebbe carino diventasse anche una lezione di vita, no? Sì, poi riconciliano con appunto una visione dello sport basato effettivamente sulla prestazione, sulla sportiva e basta, se vogliamo anche sulla non prestazione sportiva, perché appunto il flop del Real, al di là poi di chi c'era o meno in campo, di tanti campioni di cui dispone, è qualcosa che per i più romantici è comunque una certo. Sorpresa, no? Al di là di non essere anti-madridisti. Cioè, non c'è nessun dubbio. Ci è rimasto del nostro ordine del giorno, che tu hai varato come sempre la vigilia del nostro appuntamento, ci è rimasta la legge Beckham, e cioè il fatto che la Liga Spagnola sta per riunirsi per verificare o per deliberare su questo. Sì, restiamo taglio. Diciamo nella penisola iberica, uh-huh. Perché la prossima finanziaria, quella che il governo di Madrid sta per varare, abolirà quella famosa aliquota del 24%. Che secondo anche tanti dirigenti del nostro calcio ha favorito, e di fatto però lo ha favorito proprio oggettivamente, l'affluire in Spagna nel campionato spagnolo di tanti campioni, creando una distorsione nella concorrenza, visto appunto la divergenza delle aliquote fiscali. Sì. Questo 24% dal 1 gennaio 2010 invece dovrà essere portato al 43%, quindi con un'aliquota in linea anche con l'Italia, con la Spagna, con la Germania. Però per la Liga Spagnola questo è un grande danno, addirittura si parla di 100 milioni di imposte in più che dovranno pagare i club spagnoli, e venerdì c'è un'assemblea generale della Liga che potrebbe addirittura prevedere una sorta di sciopero o altre manifestazioni di protesta importanti per il, diciamo, l'effetto dannoso che in questo cambiamento potrebbe creare sui club. Provare a difendere questo privilegio comunque, se vogliamo, perché è un doppio privilegio sia per i calciatori che per le società, che sono più competitive rispetto all'Europa. Quindi, evidentemente, però se in Gran Bretagna l'aliquota sarà portata al 50% per i redditi alti dal 1 gennaio, quindi il doppio di quella che è l'attuale aliquota spagnola, è evidente che in Europa si creano distorsioni che la stessa Commissione Europea non potrà poi più accettare, anche se si parla, diciamo, di un mondo dorato come quello del calcio. Certo. Francesco, provincia di Viterbo, buongiorno. Buongiorno a lei, è sempre un piacere. Allora, grazie. A proposito di favole di Serie C che cacciano fuori in Coppa Nazionale, mi ricordo il Bari di circa 20 anni fa, se non ricordo male, che buttò fuori la Juve, se non sbaglio. Quindi si parla di 20 anni fa, però, quindi dopo da allora non si è più verificato. Sì, ma non è ancora l'Alcorcon che fa fuori il Real Madrid di Florentino. Sì, è una storia comunque. No, la mia domanda è molto semplice, essenzialmente. Sì. Volevo sapere, secondo lei, cosa sta succedendo alla Lazio. Io ero un estimatore, sono un estimatore di Ballardini, mi è sempre piaciuto, soprattutto come persona, però secondo noi, secondo me, insomma, ultimamente, non so se per colpa dei giocatori, per colpa della società o per colpe sue anche, insomma, la Lazio sta andando come sta andando, e questo è quello, sapere un suo parere, tornando al calcio giocato. Poi una cosa, lei se la prende spesso con la curva della Lazio per le stupidaggini che fa, vi posso assicurare che c'è anche gente per bene laziale, per fortuna. Lo credo. Mi sento di associarmi da quelle persone che hanno fatto quei gesti, anche che noi abbiamo Diakité che è proprio bianco non è, insomma, ecco, questo era per fortuna sì. grazie a lei Francesco. Io non credo che la Lazio adesso sta andando particolarmente male, mi stupiva anche, se devo dire, se poi quando andava particolarmente bene, insomma, questo vale per lo scorso anno e vale per l'inizio di questa stagione. Credo che l'inizio di questa stagione abbia contribuito a illudere un po', cioè la vittoria in Supercoppa, che tra l'altro, diciamocelo, non ci stava, no? Nel senso che è forse una delle migliori partite che ha giocato l'Inter in questa prima parte di stagione e una delle meno brillanti che ha giocato la Lazio in quel periodo. Diciamo che ha illuso non soltanto i tifosi, ma illuso probabilmente una parte stessa dei giocatori, forse la società, eccetera, la squadra è oggettivamente più debole dello scorso anno, perché che poi sia giusto o non giusto fare la questione di principio, questo è un altro discorso, però senza Pandev, Ledesma e compagnia, quella squadra è più debole, quindi direi che perlomeno personalmente ne sono sorpreso in maniera molto molto relativa. Vediamo se c'è ancora una domanda per Marco, che poi ci deve lasciare. E vabbè, facciamo così, gliela pongo da, tengo i due ascoltatori che sono già collegati da Livorno e da Napoli per l'ultima parte del programma, e ti giro questa mail che arriva da Claudio da Asti. Non sarebbe più onesto dare i soldi per il bacino di utenza in base al numero di abbonati a Sky e al digitale terrestre alle varie squadre? Potrebbe essere un criterio, ma non è quello indicato dalla legge, quindi se guardiamo alla normativa no. Evidentemente i criteri sono altri. Indubbiamente gli abbonamenti a Sky o anche se vogliamo a Mediaset sì, Premium sì, per il digitale terrestre sì. Sono un indice importante di quello che è diciamo, l'attenzione verso una squadra e il numero dei potenziali tifosi. Magari lo suggeriamo alla Lega di utilizzare anche questo criterio. Alla Lega nel senso di quella di Milano. Alla Lega Calcio. E anche perché in questo modo accontentiamo tutti. Per l'avvenimento sportivo dell'11 novembre, stavolta Nicola Filippone è andato decisamente abbastanza indietro nella storia dello sport. Sentite. Sembra ieri. 11 novembre 1945. Pochi mesi dopo la fine della guerra, torna in campo la nazionale italiana, che pareggia per 4-4 in amichevole contro la Svizzera a Zurigo. Il CT è ancora Vittorio Pozzo, che nell'occasione si affida in blocco ai club di Torino, schierando 7 granata, tra cui Valentino Mazzola, e 3 juventini. L'eccezione è l'ala del Bologna Amedeo Biavati, che è anche uno dei 3 reduci del Mondiale vinto nel 38, insieme al capitano Silvio Piola e a Ferraris II. Beh, sono passati la bellezza di 64 anni da quel rientro in campo della nazionale dopo gli anni di guerra, con questi nomi mitici che Nicola Filippone ci ha ricordato. Ho ancora una delle letture interessanti da proporvi prima di chiudere l'appuntamento di oggi. Ho anche da anticiparvi che domani, questo a gentile richiesta di una serie nutrita di ascoltatori che domani citerò perché ho conservato le loro mail, mi hanno chiesto in questi giorni di organizzare una conversazione con un personaggio che si è appena ritirato dal calcio, o meglio che ha organizzato una nuova tappa, ma la tappa conclusiva della sua carriera. Questo personaggio è un personaggio strepitosamente ricco di umanità e si chiama Damiano Tommasi, e Tommasi ha accettato questo appuntamento, quindi domani ci sarà una lunga conversazione in diretta con lui su questa sua ultima avventura in una squadra veronese di seconda categoria della sua terra, e ci racconterà però tutti i suoi anni in Cina, gli ultimi in Spagna, le sue avventure con la Roma, ma anche il suo impegno sociale e umano di persona e non personaggio, davvero ricco, anzi strepitosamente ricco. Quindi domani Damiano Tommasi, adesso sentiamo gli ultimi interventi degli ascoltatori già collegati. Giovanni ha chiamato dalla provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sento un intervento rapido da sportivo, spero, e da sostenitore del Bologna. Dunque, voglio dire, posto che siamo tutti contenti per la bella vittoria sul Palermo e anche che è stata ottenuta da questo nuovo allenatore che porta un po' di gentilezza, perché è una persona gentile, che non fa mai male, Colomba, però volevo dire questo: il Bologna si è costituito parte civile nel confronto del processo di Calciopoli, tra i quali c'è, come noi sappiamo, anche Luciano Moggi, che è annoverato, si dice, tra i cosiddetti amici del presidente del Bologna, Menarini, che ha, a quanto pare, sistemato alcuni uomini, appunto di Moggi, nella direzione tecnica del Bologna. Volevo sapere un suo parere su questo, una sua opinione su questo, e poi se posso dare anche un riferimento di un bel libro che parla di calcio, che sto leggendo, purtroppo non ricordo l'autore, ma il titolo è Il maledetto United, dove per United si intende il Leeds United, che parla del mondo del calcio un po' da dietro le quinte, molto interessante, un bel romanzo, tutto qua. Grazie Giovanni. Non so, questa è una storia che è uscita qualche mese fa sulle sulle discutibili, certamente discutibili, amicizia o contiguità della famiglia Menarini. Lei ha sottolineato l'aspetto più paradossale, appunto, di questa vicenda, visto che il Bologna è costato caro, il trattamento o comunque l'ottica che allora, poi adesso alle deposizioni del processo di Napoli tutto sta ovviamente sta provando a cambiare, stanno provando a cambiarlo, però insomma la realtà che si conosce e che è quella che conta in ambito sportivo, perché non mi stancherò mai di ripetere che altro è il processo sportivo, altro è il processo penale, perlomeno noi in questo ambito ci occupiamo di quello sportivo, quello che poi accade nel penale al massimo è una curiosità, ma quello che fa testo è sempre stata, per chi si occupa di giornalismo sportivo, è sempre stata la giustizia sportiva, che ha sempre funzionato meglio tra l'altro di quell'altra. Il libro si chiama L'elemento maledetto United di David Peace, mi informa dalla redazione. C'è ancora un intervento, esauriamolo subito e poi così passo a questa lettura finale. Umberto da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Carazzini. Buongiorno Umberto. Come sta? Finalmente ho l'onore di parlare con una grande firma del giornalismo italiano. Come dite voi. La chiama dal Sole di Napoli. Sì. Stava mangiando un bel spaghetto a vongole. Va buono. Stringiamo, No, volevo sapere soltanto una cosa, lei è d'accordo con me che io sono convinto che la coppia centrale del Milan, Nesta Thiago Silva, sia la migliore oggi in Europa, però se Nesta sta bene. Se Nesta sta bene è una gran bella coppia, io sa quale prendo, Ranocchia e Bonucci, io se devo sceglierne una oggi, perché mi cavo un cappello a Nesta che è il miglior difensore italiano negli ultimi anni, ma di gran lunga. Anche come eleganza, non soltanto come efficacia, rendimento e cose. Però se devo scegliere oggi una coppia centrale, ripeto, mi prendo questi due che mi pare facciano 43 anni in due, Ranocchia e Bonucci, e mi prendo la coppia del Bari, senza offesa Umberto, sia ben chiaro. Lettere a Porto Franco, cioè a Franco Arturi, Gazzetta dello Sport. Goliardia contro l'H, scrive oggi un ascoltatore di nome Andrea, un lettore di nome Andrea Bucci a Torino, scrive alla Gazzetta: sabato a Milano si giocherà Italia-Nuova Zelanda. La cosa che pare interessi di più sarà la danza H iniziale, durante la quale i 15 neri ci metteranno tutto l'impegno possibile per fare i peggiori gestacci, i peggiori sberleffi agli avversari, in questo caso gli italiani. Facciamo una sorpresa ai neozelandesi. Tanto per rimanere in campo goliardico e per tenere fede alle nostre tradizioni di Latin lover, suggerisco che i nostri scendano in campo insieme alle loro fidanzate vestite della famosa t-shirt, eccetera, eccetera. Nel momento in cui quelli inizia con la H, i nostri iniziano a baciare le proprie donne. Della serie voi fate pure e noi abbiamo di meglio. Franco Arturi gli risponde: per fortuna, mamma mia, non se ne abbia male, ma inorridisco. Che c'entra la goliardia con una danza rituale di origine antichissima che esprime i più diversi sentimenti, sfida, benvenuto, esultanza, intimidazione, gioia, dolore. Sarebbe né più né meno che uno sputtanamento nostro. Non vorrei mai che noi italiani primeggiassimo nell'essere fuori tema e tono, nella mancanza di solennità e di momenti di raccoglimento collettivo, anche espressi attraverso i riti che hanno una grande funzione sociale. Mi ha molto colpito sia la lettera che la risposta. Perché? Perché è molto bello che ci siano 80.000 persone sabato a vedere gli All Blacks. È molto bello che uno sport come il rugby diventi uno sport più diffuso e più condiviso, però purtroppo la cosa ha questi rischi, no? Al rischio dell'inquinamento televisivo di gente che con il rugby, se non l'ha capito fino adesso, ho paura che non lo capirà mai. 14:55:05 con soli 5 secondi di ritardo, grazie a Franco Piantarini in redazione, a Pietro Lacorte in regia, appuntamento a domani con Damiano Tommasi.